13 agosto 391. Le incerte fiammelle del trilume riescono a illuminare buona parte della stiva della nave. Finisco di sistemare i sacchi, accatastandoli più ordinatamente possibile nel fondo. Il legno è ricoperto da un impercettibile velo di umidità. Torno a sfiorare con un dito il pavimento ricoperto da uno strato sottilissimo di muffa. Prendo la lucerna e mi dirigo verso il boccaporto. Torno nel locale di sopra, proprio mentre Zosimo stava attraversando la passerella. Entra, sguardo fosco, ma afferra il trilume ancora acceso, scende nella stiva senza dirmi una parola. Poco dopo risale, poggia la lucerna sulla tavola fissata alla parete, poi siede sullo scanno di fronte a me, sotto la finestrella da cui si intravede uno spicchio di cielo stellato. Gli mostro il velo di muffa ancora attaccato al mio dito, glielo metto sotto il naso. Zosimo, tutta la stiva ne è ricoperta. Mi stringe i polsi con le sue mani nervose. Mio giovane amico, è di questo che ti preoccupi? È una vita che trasporto papiro e pergamena con questa nave, mai un solo rotolo si è rovinato. E un'espressione di amarezza piega la sua faccia rugosa. Continua a strattonarmi con rabbia. 30 sacchi, contenenti più o meno un migliaio di rotoli, hanno già occupato parte della stiva e ci è voluta una giornata intera per prepararli, trasportarli e sistemarli qui. Ci sono codici di pergamena veramente voluminosi. Qui sotto non entreranno più di 50.000 pezzi. E allenta la stretta, liberandomi i polsi. Ci voleva la siracosia di Archimede. Dall'espressione del mio viso deve intuire la mia ignoranza in materia. Era una gigantesca fortezza galleggiante, progettata e realizzata proprio da Archimede. Doveva essere una cinquantina di volte più grande di una nave come la mia. Ci avremmo caricato l'intera biblioteca. Beh, prenderemo i 50.000 volumi più importanti allora. E cerco di rasserenarlo con una pacca sulle spalle. Oh, Iside. Nella biblioteca 500.000 rotoli e codici sono originali, Shalim. Quelli che ho esaminato a caso sono tutti importantissimi. Mi farai tagliare una mano piuttosto che rischiare di perdere uno solo dei 28 volumi di Zosimo di Panapoli sull'alchimia. Sono il frutto degli studi dell'altra grande scienziata alessandrina, Maria l'Ebrea, di cui si parla poco per il solo fatto che era donna. Mi vergogno di vivere in questo stupido mondo. Oh, Iside! E si scompiglia con le dita i lunghi capelli arruffati. Zosimo, sei stato dalle autorità per la concessione di uno dei piani del faro? Il suo sguardo diventa ancora più fosco. Maledetti, maledetti, hanno risposto che mai permetteranno una cosa del genere, soprattutto per l'andirivieni degli studiosi. Inoltre, il faro è una costruzione di pubblica utilità e non può essere messo in pericolo da materiale infiammabile. Il sapere dell'umanità rappresenta un pericolo perché potrebbe incendiarsi. Oh, Iside, Iside! Le sue mani lasciano in pace i capelli e si mettono a torturare il naso arcuato. Sono stato anche dal prefetto e dal comandante dell'esercito di stanza d'Alessandria, ma i romani, cosa vuoi che gliene importi della biblioteca? Cosa gliene frega i romani del sapere e della conoscenza? Addirittura mi hanno detto che è già salpata la più veloce delle navi per Costantinopoli e fra pochi giorni giungerà la risposta dell'imperatore. Se Teodosio è d'accordo, il faro diventerà per intero una fortezza militare con le truppe della Marina Imperiale. E per questo hanno mandato un messo all'imperatore? Non per il faro, Shalim, ma per quello che sta succedendo. Tu hai fatto il giro delle mura, ma vedessi quello che sta accadendo nel centro della città? C'è aria di guerra, fratricida. Ho paura che Evagrio e Teofilo questa volta abbiano passato il segno. Alessandria è in rivolta, il prefetto sta facendo presidiare tutte le chiese e tutti i quartieri a maggioranza cristiana. Oltre a quelli che hai visto tu stamattina, ci sono stati altri morti, elleni e cristiani. Il tono di Zosimo è rabbioso. Sai una cosa, Shalim? Il vescovo e il suo amico Evagrio non si aspettavano che la gente avesse il coraggio di rioccupare il Serapeo. Lo speravano senza dubbio, ma non immaginavano che accadesse così presto e non avendo istruzioni definitive dall'imperatore le hanno sollecitate. Stanno accendendo la resina nel faro. Lentamente le fiamme divampano e gli specchi amplificano e proiettano la scia luminosa nell'oscurità del mare. Lo sfavillio fende il buio dinanzi a me, investe anche la nave di Zosimo, illumina il tempio di Posidone. Shalim, tieni. Zosimo mi porge un pugnale piccolo, sottilissimo, in un fodero di cuoio con dei lacci. Legalo al braccio, sotto la manica, dalla parte interna, sotto l'ascella. E anche se è proibito portare armi, non levartelo mai. Deve intuire la mia incertezza. Shalim, ho girato il mondo, sono stato sino in India, in Persia, in Cina. E ti assicuro che le cose più preziose per il genere umano sono due: la biblioteca del Serapeo d'Alessandria e Ipazia. Occorre proteggerle entrambe, mio giovane amico. Sono ancora titubante, ma negli occhi fieri di Zosimo intravedo una tale luce, una tale forza che ogni dubbio si dilegua dentro la mia povera mente, inondata dal ricordo della costellazione della musica. Mi aiuta a sistemarlo, a fissarlo, a mettermi in posizione naturale, poi mi fa provare innumerevoli volte a estrarlo. Zosimo, io sono cristiano. Shalim, quello è uno stendardo che ti hanno cucito addosso tuo padre e un prete. Sei un giovane dal cuore puro. Lasciati guidare dal tuo cuore, ne sa più di tutte le leggi di questo mondo. Mi sorride ed è un sorriso incredibilmente bello perché viene dal profondo e distende non solo i suoi lineamenti tesi, ma anche il suo tono di voce grave ma caldo che dice: Vada lei, Shalim, proteggila, ricordati che Ipazia vale più di tutti quei 700.000 rotoli. Lo stringo fra le braccia. Zosimo, uno dei miei compagni deve venire qui da te per aiutarti a fare la guardia. Ausenzio è perfetto, grosso com'è. Incute rispetto. Domani mattina, d'accordo? Mi sarebbe piaciuto partecipare alla scelta delle opere da evacuare, dice lui. Oh, ci pensano Teone, Ipazia e Zev, non temere. Ma tu, quando porti i sacchi, fai sempre il giro delle mura, possibilmente con l'oscurità. Meno diamo nell'occhio, meglio è. Shalim, lasciate perdere i testi di religione e di filosofia. Noi sappiamo cosa può veramente mutare il cammino dell'uomo. L'abbraccio ancora, attraverso la passerella, e salto sul carro, spronando il cavallo. Non ce la faccio a seguire il consiglio di Zosimo. È come se nei cantucci più nascosti della mia mente cominciasse a scatenarsi un terremoto, forse per il freddo di questo pugnale legato al braccio o per il ricordo dei corpi imbrattati di sangue di oggi. Frusto il povero cavallo, grandi figure come Teone e Ipazia che studiano per conoscere quello che la natura ha creato. Che indagano per scoprire le malattie del corpo e della mente, costrette ad agire come ladri, a nascondere rotoli e codici che servono all'umanità intera. Attraverso l'imponente porta della luna affronto le stradine buie che conducono all'importante arteria e quando entro in via Canopica resto colpito dalle numerose fiaccole e lanterne. Le altre volte che l'ho percorsa di notte ce n'erano pochissime, mentre ora si vede gente in giro, troppa. Parecchi sono soldati della guarnigione imperiale, alcuni camminano con il gladio sguainato, eppure c'è un silenzio innaturale. Avanzo lentamente, ma vicino all'incrocio con Via del Soma, i soldati circondano la tomba di Alessandro. Sotto i portici ci sono manipoli di uomini in silenzio. Sto per affrontare l'incrocio quando sento una voce squillante che mi chiama e fermo il cavallo. Da un gruppetto di persone, nascoste al riparo di una colonna, si stacca un uomo piccolo di statura e lievemente gobbo che si avvicina. Solo quando mi sta di fronte riesco a riconoscerlo. È Claudio Claudiano, il poeta incontrato alla cerimonia religiosa a casa di Valeria. Stai andando da Ipazia? Posso venire con te, Shalim? E nella sua voce, malcelate vibrazioni di ansia. Certo, Claudio, ma stiamo tutti al Serapeo. Salta sul carro, mi incita a partire, sprono il cavallo. Mentre passiamo davanti alla schiera di soldati posti a protezione della tomba di Alessandro, cerco di sbirciare. La luce delle fiaccole illumina dei cadaveri insanguinati. Ma perché li lasciano lì, Claudio? Allora non hai capito? Non sono quelli di oggi. Non sono i corpi dei cristiani che hanno profanato il tempio di Serapide. Questi sono altri cadaveri, sono nostri. Elleni ammazzati dai cristiani, scannati proprio davanti alla cattedrale, al Cesareo. Sono venuti a gettarli qui sul marmo macchiato di sangue cristiano di oggi. La sua voce trema. Provo a guardare oltre i soldati, ma mi fanno segno di sbrigarmi, di allontanarmi. Frusto il cavallo, le ruote del carro producono un rumore lugubre. Ma che ci fate al Serapeo di notte? È il posto meno tranquillo di Alessandria. Posso sapere cosa state combinando, Shalim? Stiamo evacuando la biblioteca. Perché non ci dai una mano anche tu? Mi giro a scrutarlo negli occhi, cerca di mascherare la preoccupazione, ma gli riesce male. E perché no, Shalim? Anzi, è un'occasione per combinare finalmente qualcosa di buono e dimostrare ai pazzi che anche noi poeti, quando occorre, sappiamo agire. Benissimo, allora, passiamo prima a casa per prendere dei sacchi e anche un po' di cibo. Abbandoniamo via Canopica e ci inoltriamo per le strade verso il Bruchion, nella direzione di Via del Sole. Poche lanterne, ma nel cielo stellato è da poco apparsa una splendida luna. Claudio parla poco, il suo carattere vulcanico è tenuto a freno dall'atmosfera cupa che si respira in ogni angolo della città. Anch'io l'avverto, come un peso che mi opprime nel profondo dell'animo. Nella piazza, davanti al tempio biblioteca, stazionano sparuti capannelli di Elleni e nemmeno l'ombra di un soldato. Claudio mi aiuta a portare i sacchi. All'entrata destra della biblioteca c'è il mio compagno, Olimpio, di guardia. Gli chiedo se di sopra ci sono state novità. La gente che ha occupato il tempio questa mattina non ha assolutamente intenzione di andarsene. Poco fa è sceso il sacerdote Olimpio. L'ho lasciato con Teone e Ipazia. Quando sei andato via tu, è venuto a farci visita il nipote del vescovo. E sulla faccia butterata del giovane si disegna una smorfia. E Claudio a spalancare gli occhi furbi. Cirillo? Ah, l'amico Cirillo che si è deciso a mostrarsi in pubblico? Proprio lui? E dici che è tuo amico? Nella voce fioca del mio compagno di studi vibra un tono di sorpresa. Oh, io, i pazzi e Cirillo siamo coetanei. Siamo nati tutti nel 370. E fino a 16 anni abbiamo frequentato la stessa accademia. Siamo compagni di scuola. Poi i pazzi è andata ad Atene, da Plutarco. E Claudio si accarezza nervosamente la barba. Sono io a intromettermi. Cirillo è venuto vestito da sacerdote? No, no, no, con una tunica come le nostre, ma era accompagnato da una decina di soldati armati. Ha voluto parlare con Ammonio, facendo un ennesimo tentativo per convincere gli Elleni asserragliati nel tempio a ritirarsi, e alla fine è andato a salutare Ipazia e Teone. E sicuramente ha visto quello che stiamo facendo. Scuoto la testa, sbattendo per terra i sacchi che ho in mano. Claudio mi fissa sorpreso. Olimpio allarga le braccia. E come potevamo impedirglielo, Shalim? È il nipote, nonché uomo di fiducia di uno dei due personaggi che comandano Alessandria e l'intero Egitto. Raccolgo i sacchi, furibondo, mentre Claudio, che non riesce a capire le ragioni della mia ansia, cerca di scherzare dicendo che è ben strano il mio atteggiamento. Io, Shalim, devoto cristiano, congiuro con una banda di Elleni, infuriato a causa del mio vescovo, nonché mio intermediario per la vita eterna. Lasciamo i sacchi a Nicandro e Samuel, che nonostante una dura giornata di lavoro ancora non si arrendono alla stanchezza. Valeria, Ausenzio, Davide, Erculiano e Ottavia sono andati a casa. Esichio è di guardia all'entrata sinistra. Claudio e io raggiungiamo la grande aula del centro studi, dove si trovano Teone, Zev, Ipazia e Olimpio. Mentre il poeta abbraccia tutti, incrocio lo sguardo della mia maestra. Mi vuole vicino, ha bisogno della mia presenza e questo sguardo innocente scaccia i corvi neri dalla cupola del Cesareo e dalla mia anima. Le siedo accanto, mi stringe una mano con le sue dita sottili che mi trasmettono una forza incredibile, poi continua ad ascoltare la voce cavernosa di Olimpio, così in contrasto col suo faccione da bambino. Tutto quello che è accaduto finora io l'ho vissuto in sogno, persino la visita di Cirillo di poco fa. E passandosi una mano nei capelli si alza dallo scanno, accennando due passi verso l'uscita. Torna indietro, ci fissa addolorato. L'ho raccontato soltanto a Eladio e Ammonio, ma è giusto che anche voi conosciate i miei sogni premonitori. Zev si toglie la kippa, prende a stropicciarsi i folti capelli bianchi e lo fissa con occhietti obliqui. Perdonami, Olimpio, ma allora perché non hai fatto qualcosa per impedirlo? Mi riferisco agli oggetti sacri, a quello che è successo questa mattina. Il volto del filosofo sacerdote è ancora più fragile su quella corporatura così alta e magra. Sorride con amarezza. Questo sogno si è manifestato per 3 giorni di seguito con lievi sfumature diverse. Ma la sostanza era sempre quella, solo che l'ho fatto un anno fa. Ed era così vero, reale, che ora Posso confessarvelo, per un mese di seguito, ogni giorno, senza dire niente a nessuno, mi portai a casa gli oggetti sacri. E allarga le braccia, sconsolato. Poi mi rassicurai, mi dissi che era stato soltanto un sogno e cercai di non pensarci più. Si morde le labbra, scuote la testa, con il dolore negli occhi. Ma perché sfuggi i nostri occhi? Perché hai voluto riunirci qui? Che altro hai visto un anno fa in quel sogno? E gli pianta sul faccione indifeso uno sguardo implacabile. Olimpio accenna parecchie volte qualche passo avanti e indietro, poi ci abbraccia tutti con occhi supplici, spauriti. La distruzione del tempio. I suoi occhi mitici abbandonano, vagano sulle pareti, sulle centinaia di nicchie colme di rotoli e di codici, e il tono è ancora più grave quando aggiunge il rogo della biblioteca. La voce profonda di Teone risuona in un momento di particolare emozione. Ascolta, figliolo, la sequenza temporale degli avvenimenti è identica nel tuo sogno e nella realtà? Oh, questo no, il sogno cominciò con la visita di Cirillo, accompagnato dai soldati romani. Subito dietro di lui giunse lo zio, Teofilo, aveva in mano una torcia e diede fuoco alla biblioteca. Poi la torcia mutò natura e divenne un piccone. Il vescovo attraversò indenne le fiamme, salì 100 gradini, entrò nel tempio e cominciò a fare a pezzi la statua di Serapis. Da solo riuscì a distruggere tutto il tempio. Quando tutto ebbe fine, Teofilo si fece largo tra ceneri e macerie e depose sui gradini all'entrata del tempio, in mezzo alle feci, al sangue degli elleni e dei cristiani uccisi durante la distruzione del Serapeo, gli oggetti sacri del nostro culto. Olimpio respira affannosamente. L'ultima scena che ho visto nel sogno è quella di Teofilo e Cirillo che si allontanano dalle ceneri del Serapeo diretti verso la cattedrale del Cesareo. Al loro arrivo, le migliaia e migliaia di corvi che ricoprivano la cupola volano via e dal cielo prende a piovere sangue, sangue umano, e si copre il volto con le mani tremanti cercando di nascondere un'emozione irrefrenabile. Nessuno di noi ha il coraggio di intervenire. È la voce tremula del sacerdote che aggiunge: a un mese dal sogno, quando smisi di portarmi gli oggetti sacri a casa, raccontai tutto a Eladio e Ammonio. Dissi che volevo partire e andare lontano per salvare il tempio e la biblioteca. Io ero il tramite tra il fato e il suo realizzarsi, e se strappavo un anello alla catena, potevo liberare questo luogo dal suo destino funesto, ma Eladio e Ammonio mi convinsero a rimanere. E immagino quali motivazioni dovettero usare per convincerti. La voce squillante di Claudio spezza l'atmosfera cupa della sala. Il poeta getta sul filosofo sacerdote uno sguardo ridente, ironico. Olimpio scuote la testa, cercando inutilmente di rispondere al sorriso. Claudio, che ormai si sente investito del ruolo di dispensatore di serenità, continua: un argomento semplicissimo. Nella tua vita hai sognato moltissime volte, mai una sola volta quello che era successo nella tua testa e poi accaduto nella realtà. O meglio, è accaduto, ma prima. I nostri sogni non sono altro che un ricordo di ciò che abbiamo fatto, pensato o sognato nella vita reale. Ma in questo caso il sogno ha preceduto la realtà. Olimpio si morde le labbra con rimasugli di sofferenza negli occhi. Il tuo sogno premonitore era nient'altro che una paura. Tu avevi timore che potesse accadere una cosa del genere e casualmente è successo perché hai immaginato e temuto un qualcosa che purtroppo era possibile che accadesse. Mi capisci, Olimpio? Se tu fossi un taglialegna barbaro o un contadino cinese che non avesse mai sentito nominare né Alessandria né Egitto né il Serapeo, ebbene allora sì che avresti potuto pensare a qualcosa di misterioso. Ma non tu, amico mio, non hai fatto altro che sognare le tue paure. Il povero Olimpio finalmente sorride, anche se con evidente sforzo di buona volontà. Che Serapis ti ascolti, fratello mio. Il filosofo sacerdote si allontana. Ipazia prega Zev di accompagnare Teone a casa e il vecchio acconsente a patto che anche la figlia vada con lui, ma lei è irremovibile. Padre, lascia che noi giovani facciamo la nostra parte. Tu, Zev e Zosimo avete costruito questo mondo, è ora che riposiate per poter continuare ad aiutarci domani. Sul volto paffuto di Teone si dipinge un sorriso che cancella tutte le ombre accumulate durante il racconto di Olimpio. Quindi, figlia mia, Il tuo amico Claudio non è riuscito a convincerti sulla faccenda dei sogni. Oh, certo che mi ha convinta, padre. Ma qui si tratta di un programma preparato a Milano e a Costantinopoli parecchi decenni fa, dagli imperatori, in accordo con la Chiesa, distruggere le biblioteche, il sapere e la conoscenza. Papi e imperatori hanno lo stesso disegno. Si sono alleati per dominare la mente dell'uomo, il mondo intero. Hanno già bruciato tutte le più grandi biblioteche dell'impero. Quella di Atene, di Pella, di Antiochia, di Pergamo, resta la più importante, questa. E i nostri antenati e antenate hanno semplificato loro le cose collocando la biblioteca più prestigiosa del mondo nel tempio ellenico più sacro di questo paese. Zeb si rimette il cappelletto in testa, si alza, porge il braccio al vecchio scienziato e prima di allontanarsi protende una mano verso di me. Claudio e Ipazia. Queste sono le nuove generazioni, amico mio. Menti fredde e razionali. E la colpa è nostra. Invece di portarli al tempio, li abbiamo mandati all'accademia. Tu poi con tua figlia hai proprio esagerato. Ho paura che invece di qualche bel nipotino dovrai accontentarti della gioia di una bella equazione quadratica o cubica. Ipazia scuote il capo, il volto addolcito dalla tristezza.